4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E ancora una volta buona serata amici dei motori da parte di Roberto Rasia al microfono e di Giorgio Matè in regia, che ci farà ascoltare molte voci questa sera. Intanto quella di Marco Perucca di Quattro Ruote, che dopo essere stato in pista ci racconterà un confronto davvero incredibile fra una Mitsubishi e una Subaru. Poi l'avvocato della nostra trasmissione ci spiegherà quando è obbligatorio e quando non lo è assicurare un veicolo, e poi chiuderemo con una grande inchiesta di IBM commentata dal professor Di Bari sugli scenari del futuro nel mondo dell'auto. Particolarmente interessante, ve lo assicuro. Marco Perucca da Quattro Ruote, buonasera. Buonasera. Caro Marco, ormai ti sei specializzato nelle prove ad alta adrenalina, per noi sei l'uomo dei 5 secondi, sono quelle poche vetture che fanno 0-100 in meno di 5 secondi. Stavolta ci proponi un confronto, lo vuoi presentare tu ai nostri amici appassionati di motori? Sì, certo, sono due auto molto particolari, sono diciamo i modelli da cui poi vengono derivate le rispettive versioni da corsa da rally, quindi sia della Mitsubishi sia della Subaru, e sono tecnicamente molto molto sofisticate, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione a ruote, la trasmissione integrale, insomma la trazione integrale che le contraddistingue. Allora diciamo subito i nomi: Mitsubishi Lancer Evo e la sigla è SAVC, contro la Subaru Impreza VRX ST, due auto veramente di grande valore tecnico. Iniziamo da una scheda che ci farà capire esattamente le caratteristiche tecniche, poi Marco Perucca ci darà le sue impressioni dopo averle guidate. Mitsubishi Lancer Evolution e Subaru Impreza VRX tornano completamente rinnovate, pronte come sempre a contendersi il cuore degli appassionati. E non solo per il design fuori dal comune, che ne esalta il DNA sportivo, ma anche e soprattutto per una meccanica d'eccezione, che affonda le sue radici nel mondo dei rally, disciplina in cui entrambe le case sono protagoniste. Tutto è finalizzato al più puro piacere di guida, grazie anche ai controlli elettronici e alla trazione integrale, che aiutano a sfruttarne fino in fondo le altissime prestazioni. Ecco le caratteristiche principali. Mitsubishi Lancer Evolution SAVC, carrozzeria, berlina 3 volumi, 5 porte a 4 posti. Dimensioni, lunghezza 4,50 m, larghezza 1,81 m, altezza 1,48 m. Motore, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea. Potenza 295 cavalli. Trasmissione, trazione integrale, cambio manuale a 5 marce. Prezzo 46.651 euro. Subaru Impreza VRX ST, carrozzeria, berlina 2 volumi, 5 porte a 5 posti. Dimensioni, lunghezza 4,41 m, larghezza 1,79 m, altezza 1,47 m. Motore, anteriore longitudinale, 4 cilindri contrapposti. Potenza, 300 cavalli. Trasmissione, trazione integrale, cambio manuale a 6 marce. Prezzo, 46.141 euro. Ecco, partiamo dal prezzo, è molto in linea, ovviamente si differenziano per 400 euro. È guerra totale fra queste due auto, Marco? Sì, senz'altro, cioè sono auto che si comprano per passione pura, o per correre ovviamente, oppure per passione pura. Bisogna essere degli appassionati della tecnica e della guida per poter gustare due auto di questo genere. Ci dai le tue impressioni? L'hai guidata intanto nell'handling di Vairano, immagino, la vostra pista a Pavia? Sì, le ho guidate sia in pista da noi sia su strada, e sono le due tipiche automobili che diciamo diventano più accattivanti, più appassionanti da guidare man mano che le condizioni peggiorano, e però sono state studiate proprio per questo, quindi danno il meglio quando l'aderenza comincia a venire meno, quindi sul bagnato e poi anche su sterrati, fango, neve e ghiaccio, ovviamente con le gomme giuste. La differenza importante fra le due auto, a parte i motori, uno è un 4 cilindri in linea di 2 litri, l'altro un boxer di 2 litri e mezzo, che erogano più o meno la stessa potenza, la differenza sostanziale è ancora nella trazione integrale, che utilizza schemi diversi. Molto bene. Senti Marco, per quanto riguarda anche la sicurezza, vorrei spendere due parole con questo, poi ci salutiamo. È ovvio che sono auto che portano ad andare veloci, è inutile nasconderci dietro un dito. Bene farlo in pista, bene farlo con qualcuno accanto che ci insegna. Però è anche vero che sono auto spesso protagoniste di brutti incidenti, e non è colpa delle auto che sono sempre più sicure, è colpa di qualche imbecille che le guida. Ci dai una pillola di saggezza in questo senso per guidare auto di questo tipo? bisogna essere, diciamo, onesti con se stessi, nel senso che sono auto veramente con cui si può andare molto forte proprio su strada, perché sono auto stradali più che da pista. Però non bisogna farlo, ovviamente, e bisogna essere consci che per quanto abbiano limiti molto elevati, quando ci si avvicina a questo limite, per sfruttarle come si deve ci vogliono tecniche, servono tecniche di guida specifiche, particolari, e una preparazione assolutamente non comune. Entrambe comunque dispongono dei classici sistemi elettronici di sicurezza, in questo caso regolabili su più livelli in modo da lasciare più o meno libera l'auto di muoversi, e se uno ovviamente tiene inserita l'elettronica, le auto sono ovviamente alla portata di tutti, però attenzione perché si va forte. Grazie davvero anche per questi consigli a Marco Perucca di Quattro Ruote. Marco, alla prossima prova, grazie. Ok, arrivederci a tutti i radioascoltatori. E adesso passiamo al nostro avvocato Erika Lievore, che ci dà sempre consigli su come districarci nei problemi ovviamente legati alle norme del codice della strada. Avvocato Lievore, intanto buona serata e grazie. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Prendo spunto da un ascoltatore proprio che ci ha scritto, lascia l'auto in strada per parecchio tempo e vorrebbe non assicurarla. Intanto le chiedo se si può non assicurare un'auto lasciandola per strada. Diciamo che se lei è d'accordo ricordiamo insieme innanzitutto la norma generale, dicendo che l'articolo 193 del codice della strada prevede l'obbligo di assicurare tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strada, prevedendo quindi una sanzione amministrativa da 742 a 2970 euro per coloro che circolino senza copertura assicurativa, a cui va aggiunto, attenzione, un provvedimento penale di sequestro immediato del mezzo. Quindi veniamo alla risposta al nostro ascoltatore, non può non assicurarla. Sì, certamente tutti i veicoli parcheggiati su strada pubblica devono essere coperti dall'assicurazione. Infatti. Pensi che sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta. E addirittura lo stesso obbligo lo abbiamo, per esempio, se lasciamo su strada un veicolo incidentato o usurato nelle sue parti essenziali e quindi inidoneo addirittura alla circolazione. Ricordatevelo quindi sempre, assicurare il veicolo anche qualora lo lasciaste in sosta per strada, se no multa da 742 a 2900 euro più azione penale. Chiudiamo con un'ultima domanda: quando si può non assicurare il veicolo, avvocato? Allora, il proprietario di un veicolo è esonerato dall'obbligo di assicurarlo quando innanzitutto egli può dare prova di aver venduto a terzi la propria automobile, o ad esempio quando possa provare di aver destinato il proprio veicolo all'esportazione, quindi diciamo presentando quel foglio di via e targa provvisoria che viene data al proprietario quando effettua quel procedimento detto radiazione del mezzo. E a questo aggiungiamo che ovviamente non saremo tenuti ad assicurare quel veicolo che non entri mai in circolazione su strada, quindi per chiarirci e fare un esempio, quel mezzo che teniamo continuativamente in un garage privato. Eccolo lì, per esempio, in un garage privato. Grazie all'avvocato Lievore dell'omonimo studio di Milano. A presto, buona serata. A presto e buonasera a tutti. Quattro ruote e dintorni. E adesso dobbiamo, come promesso, parlare di futuro. Non so se siete d'accordo con me, ma anche e soprattutto in campo automobilistico credo che il futuro abbia un fascino che ci prenda ogni volta di più. Io quando sento parlare dei nuovi profili aziendali, delle concept car, piuttosto che delle nuove dinamiche del futuro, alzo sempre le orecchie, perché intanto è un ambito, lo sapete, che mi piace molto, ma poi insomma cercare nell'ambiente, lavorandoci, di capire che cosa succederà domani e saperlo un po' prima ti dà quella sensazione finta in effetti, ma di avere qualche potere in più. Allora vorrei condividere con voi questa cosa, grazie a IBM e grazie al professor Di Bari che ci faranno compagnia nei prossimi minuti. Vi presento intanto il Vice President Industrial Sector proprio dell'azienda IBM, Augusto De Castro. Augusto, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie mille per questo invito. E a lei per la sua disponibilità. E poi anche a una persona che il Sole 24 Ore conosce bene, il professor Vito Di Bari. Buonasera, professore. Buonasera a lei e complimenti per la sua ottima trasmissione che seguo sempre. Grazie, grazie, lo so che lei ama i motori e non a caso oggi l'ho chiamata, perché Vito Di Bari, per chi non lo sapesse, per i pochi distratti, si è sempre occupato di tendenze proiettate da oggi al domani, soprattutto in ambito tecnologico, ma so che si occupa anche di motori. Allora, IBM ha redatto questa ricerca, si chiama Automotive 2020, Clarity Beyond the Chaos. Ce ne parla Augusto De Castro. Le chiedo, De Castro, intanto per i nostri ascoltatori, di rendere rendere leggibile questa ricerca per capire da dove è partita e a che cosa ha portato. Dunque, questa è una ricerca su un settore specifico, come l'IBM ne fa da anni su tanti settori. Venendo all'automotive, sono stati intervistati 125 top manager o influencer, diciamo così, in 15 paesi, che rappresentano diciamo equamente distribuiti sostanzialmente produttori di automobili, fornitori, quindi nella catena logistica della produzione, o terze parti, accademici piuttosto che influencer, giornalisti, sì, qualunque, questo tipo di popolazione. E quindi un assortimento molto vario, ai quali sono state fatte delle domande, sono state chieste delle previsioni che poi sono state riassunte nello studio. Allora, iniziamo questo studio, le chiedo massima sintesi, ovviamente poi renderemo pubblica la ricerca, ovviamente. Iniziamo dal primo punto, secondo lei il punto più importante che ci aspetta per il domani qual è? Dunque, anzitutto tutti quanti concordano che i prossimi 10 anni vedranno delle trasformazioni incredibili, molto maggiori di quelle cumulate negli ultimi 50 anni, e probabilmente, essendo stato fatto prima dell'ultimo periodo, questa affermazione addirittura sarà da rivedere, perché credo che avremo un'accelerazione. E questo è già un punto, un attimo solo De Castro, Vitto Di Bari, come possiamo commentare un settore che industrialmente parlando non è mai stato troppo veloce, però ultimamente le auto, col mercato che sta soffrendo tantissimo, stanno comunicando molto, prevede De Castro con IBM che ci sia una velocità di cambiamento più elevata rispetto al passato, professore? Sì, c'è un fattore d'accelerazione che sta investendo la maggior parte dei settori industriali. Dipende dal fatto che paradossalmente è diminuita la domanda, motivo sì, per cui bisogna moltiplicare l'offerta. Questa offerta viene moltiplicata o aggiungendo nuove funzioni o creando nuovi modelli o aumentando la varietà di customizzazione, cioè di personalizzazione dei prodotti. L'automotive è investita da questo fenomeno, che però è un'onda lunga e non di progresso, oserei dire, ma di deriva, perché è influenzato da una domanda decrescente. Certo, è molto chiaro. Dottor De Castro, secondo punto, entriamo nel vivo delle automobili. Sì, ecco, volevo riprendere i punti appena sì, indicati, perché in effetti è uno dei temi sollevati, diciamo identificati dallo studio, esattamente quello indicato dal professore. Se noi però vediamo quali sono gli elementi, no, che spingeranno, prima di entrare nell'automobile, che spingeranno questi cambiamenti, sono il progresso della tecnologia rimane, e oggi il numero uno all'attenzione di tutti i produttori, sì, fornitori, eccetera, e rimarrà il punto più importante. I punti invece che cambieranno radicalmente come forze che spingono questa evoluzione, questa accelerazione, sono l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo raddoppierà il livello di importanza nell'industria. Un altro tema collegato, se vogliamo, è il cosiddetto corporate social responsibility, e l'ultimo è come cambieranno le forme di mobilità delle persone. Quindi questi sono i fattori importanti che sono stati identificati. Chiaro, come spinte. Chiaro. Un attimo De Castro, Di Bari, intanto questa company social responsibility io continuo a sentirla sempre di più negli ultimi mesi, forse negli ultimi 2 o 3 semestri, anche in tutti gli altri settori, vero? Anche in altri settori, però, è particolarmente sensibile nel settore dell'automotive, perché da una parte viene fatto carico in maniera iniqua, devo dire, alle automobili storicamente della massima quota parte dell'inquinamento urbano. Questo era vero un tempo, ma non lo è più, perché ormai la massima quota parte di inquinamento deriva dagli impianti di condizionamento dell'aria. Però è rimasta, lei mi insegna che la percezione è dura a morire, cioè quando ci viene messo in testa qualcosa poi ha una permanenza nelle nostre teste, e è rimasto un po' questa sensazione, che tanto che le automobili vengono fermate quando c'è un livello di inquinamento troppo alto, non vengono spenti i condizionatori. E quindi questo ha generato una raffica anche di interventi, certo, da parte delle pubbliche amministrazioni o interventi statali con leggi, normative, procedure prassi consolidate come questo del fermare il traffico nei giorni di massimo inquinamento che non possono non portare il problema all'attenzione dell'industria, che è il lato, diciamo, che questo studio esamina. A me piacerebbe poi, nel proseguo anche di questa conversazione, sì, visto che abbiamo l'industria molto ben rappresentata da questa indagine di IBM, fare un po' l'ombudsman, come nei paesi scandinavi, l'avvocato del popolo, dei guidatori. Perché no? Un attimo lo facciamo. A proposito di ecologia, lo studio di IBM ritiene che, pensate, passerà dal 95% di oggi al 65% del 2020, quindi non stiamo parlando del 2100, ma del 2020, fra 10 anni, la percentuale dei veicoli con carburanti fossili, e che la media di emissioni CO2 scenderà, secondo gli esperti, a 97 grammi ogni chilometro percorso. Tenete conto che oggi siamo a 160. De Castro, questi sono dati che provengono poi da statistiche che voi avete elaborato, oppure hanno una realistica approvazione dei dati proprio che vi hanno fornito i responsabili del settore automotive? Ma io direi che hanno l'autorevolezza appunto del dato fornito da chi oggi lavora nell'industria, sono quindi queste 135 persone, produttori, fornitori e influencer che hanno detto che questo è il trend, che questo è il trend di quello che succede, che è influenzato dai consumatori e da come saranno fatte anche le automobili, quindi ecco. Come si diceva prima, il consumatore, che è sempre più scarso, soprattutto nei paesi maturi, deciderà sempre di più l'acquisto sulla base di questi fattori. Ecco, ha citato una parola chiave ed è acquisto. È vero che in futuro si prevede che sempre meno persone acquisteranno un'auto e che sempre più persone invece noleggeranno o faranno il sharing, quindi la condivisione con altre persone in un parcheggio comune dell'autovettura. Questo per andare incontro anche alla customizzazione che Di Bari prima citava, che andrà a colpire per esempio il colore della vettura o il modello a seconda che nel weekend io abbia bisogno di caricare figli e bagagli oppure una cabrio per farmi un giro, De Castro? Sì, esattamente, questo è uno degli aspetti più curiosi, se vogliamo, leggendo i risultati di questo studio che viene fuori, quindi si passa da un concetto di proprietà al quale siamo tutti molto legati a un concetto di io ho un compro un cumulo di ore, come si compra un cumulo di comunicazione con un telefonino, e poi queste ore di veicolo io durante la settimana magari ho la smart, per dire, insomma, un mini vehicle cittadino, e il weekend il van per caricare la famiglia, i cani, le biciclette e quant'altro e andare fuori, e quindi anche l'auto quando è parcheggiata nel garage, e qui si viene a un altro aspetto estremamente interessante che è quello del motore ibrido elettrico, potrà essere utilizzato anche per fornire a sua volta o scambiare energia con la rete. Quindi ci sono degli aspetti veramente inusuali. Bellissimo. Che fanno pensare. È chiaro. Grazie davvero a De Castro. Chiudo con un minuto con l'avvocato del popolo, vogliamo chiamarla così, allora, professor Di Bari. Un minuto a sua disposizione. L'avvocato dei guidatori. Dei guidatori, dell'automobilista. Ci faccia capire come e perché, in un minuto. Sì, a me sembra che nel futuro delle automobili ci siano sostanzialmente un trend in crescita che è quello del desiderio di sicurezza, un passaggio obbligato che è quello al consumi non inquinanti, un'ambizione, un desiderio per il quale sfregheranno in molte la lampada da radino, sono le auto che volano, che sono già esistenti, sono già funzionanti, esiste un modello che si chiama Xhawk che verrà messo sul mercato fra 2 anni e che però comporta una serie di problemi enormi di gestione di logistica. Se lei pensa che le auto ibride comportano il problema dei rifornimenti, si può immaginare queste automobili dovranno decollare, dovranno atterrare, dovranno poter accedere a settori della città. E per cui bisogna creare delle piazzole. Insomma, traffico in aereo, non solo su strada. Speriamo bene per il nostro futuro, ma questi sono gli scenari possibili. Poi ci sentiremo nel 2020 per capire chi ha inventato cosa e chi ha sbagliato che cosa invece. Allora, intanto grazie ad Augusto De Castro, Vice President Industrial Sector di IBM. Grazie, dottor De Castro, e a presto. Grazie mille, buonasera. E grazie anche a Vito Di Bari. Grazie, professor Di Bari, a prestissimo. Grazie anche a voi, torno nei ranghi di essere un vostro ascoltatore. Molto bene, graditissimo, grazie professore, con le loro due voci termina anche la nostra trasmissione di questo sabato, però vi aspettiamo fra 7 giorni esatti, ore 21.05 di sabato prossimo, sempre in compagnia di Radio 24 e di Quattro Ruote. Giorgio Matè in regia, Roberto Rasia al microfono, vi hanno fatto compagnia, vi aspettano la prossima settimana. Buona guida a tutti!